noi fossimo andati da consulenti a ragionare insieme ai nostri clienti sul rischio di pandemia, secondo me saremmo stati abbastanza, come dire, derisi. Come vedete, la situazione cambia radicalmente. C'è uno scambio di esperienza all'interno di questi laboratori? Sono andati a parlare con uno chef di cucina, perché alla fine è la gente che è capace di gestire delle risorse. Per parlare di comunicazione, saremmo dovuti venire qua a parlare con un DJ, no? Cioè, parlare con chi fa la radio. Un conduttore. Beh, a me piace la musica, per questo sono un po'. Certo. Noi dobbiamo metterci in gioco, e questo mettersi in gioco è il più grosso insegnamento che abbiamo tratto da questa esperienza. Luca Emanuele Lanza, da che formazione sei partito? Una formazione totalmente umanistica, quindi sono addirittura un legale. Quanto può guadagnare in più un risk manager 4.0 più gettonato rispetto a un risk manager consulente normale? Una forchetta e la seniority, un RAL, come si dice. Un RAL? Beh, noi, i nostri ingressi entrano sostanzialmente intorno ai 20-22 di RAL, come quasi tutte le società di consulenza. E poi qualificandosi si arriva a superare i 100 anche in poco tempo. Questo è un dato di fatto, è anche un'escalation in questo senso. Il bello di questo è entrare in una professione che comunque è una professione ancora non così strutturata, nel senso che in particolare non parlo del mondo bancario, del mondo degli intermediari finanziari, dove il risk management è una professione ormai molto strutturata perché è anche regolamentata. Ma nel mondo industriale è una professione dove c'è ancora tantissimo campo, c'è ancora tanto modo di crescere, e quindi questa è una professione molto interessante. Il risk manager 4.0 che cosa dà di più rispetto a un risk manager tradizionale? Vabbè, allora, il ciclo del risk management in Italia è una specie di circolo che si morde la coda, no? Si era partiti ragionando, il risk manager nel mondo industriale era chi si occupava di assicurazioni, questa era l'idea, cioè parlavano con i broker assicurativi, ma senza sapere esattamente che cosa fare. Poi c'è stata la sbornia del rischio cambi e quindi dei derivati, e quindi il risk manager era quello che valutava i derivati. Poi man mano si è proceduto su ragionamenti di tentativi di valutare tutto, fino poi a ritornare indietro e dire ma forse i rischi industriali, quelli iniziali che io tentavo di coprire con delle assicurazioni, se io oggi li misuro e sono capace di dire quanto valgono, forse torno indietro dalle assicurazioni e inizio a parlarne a ragion veduta, nel senso che ogni rischio ha un prezzo, cioè, e quindi essere capaci di prezzare un rischio è un passo ulteriore. Quindi oggi i risk manager sono la controparte dell'amministratore delegato che fa il piano industriale, perché fanno, come abbiamo noi metodologicamente anche sviluppato, fanno business plan at risk, quindi vanno a vedere quali sono gli elementi di un business plan che possono variare e in che modo, e le misurano. Tu che sei ancora in fase di formazione, hai una professione che è molto gettonata secondo te, secondo il polso del mercato, e dove si può trovare, ovviamente a parte i lab che ovviamente stai facendo all'interno di una struttura, comunque vedi un vantaggio competitivo? Quindi i consigli che puoi dare a chi vuole diventare un risk manager 4.0, partendo da quali tipo di formazioni e aggiungendo cosa? Sicuramente economica, qualche cosa di matematica, legale, e poi onestamente consiglio di entrare in consulenza. Fondamentalmente perché la consulenza ti permette di fare una serie di cose quando sei molto giovane o quando sei appena entrato nel mondo del lavoro. La prima è darti una struttura. La seconda è ti permette di vedere tante realtà. C'è anche un indirizzo email a cui possono mandare un applying form, un'adesione? Se loro entrano nel nostro sito protiti.it c'è la sezione di in assoluto per le assunzioni, collegata direttamente al nostro ufficio personale. Tenete conto che noi riceviamo qualcosa tipo 14.000 curriculum l'anno. E in ogni caso quello che è importante che voi segnalate è il fatto che ci sia ancora una grande richiesta di questa formazione, ed è anche per voi una formazione worldwide, perché avete sedi in diversi paesi e quindi ha un taglio mondiale, così. Mondiale.